Il punto di Stefano Folli. Nei prossimi mesi lo scenario della politica non sarà certo lo scontro fra Renzi e Letta, come hanno insistito a dire alcuni osservatori, ma molto più logicamente il confronto anche duro fra il nuovo PD di Renzi e il mondo di Beppe Grillo, a cui ora dobbiamo però aggiungere anche la Lega di Salvini, il neosegretario che, per far capire di esserci anche lui, ha definito l'euro un crimine contro l'umanità. Le elezioni europee sono vicine e il conflitto sarà senza esclusione di colpi, senza dimenticare che tra i movimenti che vorrebbero contestare il sistema ci sono i famosi forconi, peraltro già spaccati al loro interno, e c'è l'incognita di Forza Italia, da che parte finirà per collocarsi alla lunga. Resta il fatto che ieri Renzi, nel suo discorso d'esordio, ha fatto capire di voler essere un fattore di stabilità per il governo, sia pure molto dinamico, perché prioritari sono l'economia e il lavoro. I nemici invece saranno i populisti, a cominciare proprio da Grillo e da quelli che vorrebbero imitarlo.